si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo, molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Da poco tempo fa le applicazioni della scienza... Il gas è lo stato più semplice in cui si usava la materia. La libertà di poterlo redistribuire e modificare. La cultura scientifica, voglio dire, è qualcosa di immenso. Caccia al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. E sono le 10.31 di questo sabato 1 novembre 2008 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. Annuncio iniziale per tutti gli appassionati di scienza. Questa probabilmente è la più politica delle trasmissioni finora fatte a Caccia al Fotone. Argomento, come avrete già letto sul blog della trasmissione, l'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008 numero 112, meglio noto come la legge del 6 agosto 2008 numero 133. Ma non solo. Per parlare delle conseguenze che questa legge, e non solo, avrà sulle università e sulla ricerca scientifica, avremo in studio Francesco Lescai, assegnista di ricerca della Facoltà di Medicina. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Francesco, hai 100 parole iniziali per introdurre l'argomento. Dunque, la situazione in cui ci troviamo è molto drammatica perché nell'arco di pochi mesi sono stati approvati una serie di provvedimenti di natura economica, ma che contengono le norme più disparate, che di fatto attaccano l'intero sistema dell'istruzione nel nostro paese con strumenti puramente economici, cioè non si discute di contenuto del sistema dell'istruzione, ma si taglia il personale, le risorse e la struttura delle scuole, dalle materne fino all'università. Per cui la situazione in cui ci troviamo attualmente è con leggi approvate, che quindi sono diventate leggi della Repubblica. Peraltro con decreto legge. Con decreto legge convertito in legge in Parlamento con una rapidità straordinaria, che di fatto smantellano il sistema dell'istruzione pubblica così come lo conosciamo. Di questo e di molto altro ovviamente parleremo nel proseguo della trasmissione. Ma ora andiamo ad ascoltarci i Wary Moose, gruppo rock svedese nato nel 2003, che ha deciso di produrre musica secondo la licenza Creative Commons. Quella che ci andiamo ad ascoltare è Red. e bentornati a Caccia al Fotone. Ribongiorno Francesco. Buongiorno. Francesco, noi ci siamo conosciuti nel 2005, anno in cui è nata questa meravigliosa manifestazione che era Biopop, e già allora eri precario. Annus Domini 2008, sei ancora precario? Oppure allora no? Ero dottorando di ricerca, adesso sono assegnista di ricerca, per cui la risposta è sì, ovviamente. Cioè, non cambiano le cose? No, non cambiano. Francesco, di che cosa stiamo parlando in realtà? Stiamo parlando della legge Gelmini, stiamo parlando della legge Brunetta? Chiariamo un po', perché c'è un po' di confusione su questo. Beh, stiamo parlando un po' di tutto, nel senso stiamo parlando innanzitutto di un primo provvedimento che è la legge 2008, qui è stato affrontato il provvedimento dell'ICI, in cui sono state trovate delle risorse, anche lì sottraendo risorse al sistema di istruzione pubblica. Stiamo parlando della legge 133-2008, che è un'altra conversione di un decreto legge. Stiamo parlando di un provvedimento in discussione alla Camera dei Deputati adesso, che è il 1441 quater, tutti provvedimenti di natura economica barra stabilizzazione della finanza pubblica barra qualunque altra cosa. Qualche giorno fa eri in piazza per manifestare, vero Francesco? Sì. E allora ti faccio sentire un pezzo della manifestazione dell'altro giorno. Volentieri. Qual era la sensazione quando stavi in piazza, Francesco? Era una sensazione bellissima, perché era un corteo veramente di tanti colori e di tante facce. Erano volti che andavano dai bambini delle materne alle loro mamme che li hanno accompagnate alla manifestazione, agli studenti medi, agli studenti universitari, ai ricercatori, ai docenti. C'era veramente una grande varietà di persone con tante voci e un'esigenza unica, cioè quella di difendere il sistema dell'istruzione e di rilanciare soprattutto su tante proposte che circolano in questi giorni nelle piazze e nei movimenti. Poco prima della trasmissione ci siamo seduti sul tavolo fuori dalla diretta, abbiamo letto con curiosità e con divertimento i titoli di queste leggi. Ce le vuoi leggere? Perché sono veramente incredibili. Drammaticamente sì, perché questo deriva però dall'abitudine di questo governo di depauperare il Parlamento del proprio potere, di fare dei decreti legge che affrontano tutto e di più e poi di farli passare in Parlamento con un'approvazione rapida. La 133, che converte in legge il decreto 112-08, ha questo simpatico titolo: recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Uno non si aspetterebbe mai che una legge di questo genere. Beh, ovvio, questo è chiaro, ma la legge poi del resto contiene di tutto e di più, non affronta soltanto i grandi tagli all'università. Ma l'altro titolo veramente simpatico, se vogliamo dirlo, più che altro grottesco direi, è quella in discussione adesso alla Camera dei Deputati, il 1441 quater, che è la delega al governo, e sottolineo delega al governo ovviamente, in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso, né norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Senti Francesco, quali sono i nodi principali di questa legge? Per quanto riguarda la 133, sicuramente sono almeno tre punti fondamentali per l'università. Innanzitutto la facoltà di trasformazione delle università in fondazioni di diritto privato. Questa è una cosa particolarmente grave, perché anche se ovviamente la legge parla di facoltà di trasformazione, poi considerando tutto il resto degli articoli dell'altra legge, sia della 126 che della 133, che di questa che è in discussione adesso alla Camera, diventerà quasi una forzatura per le università trasformarsi in fondazioni private. L'alienazione di beni pubblici ovviamente ad un ente di diritto privato, come sarà le fondazioni, il blocco del turnover al 20%, poi magari spiegheremo cosa significa, e soprattutto un taglio drammatico al fondo di finanziamento ordinario, che arriva per un totale di 1.441 milioni di euro. È incredibile. Io avevo letto questa legge e si contraddice in più punti, nel senso che ci sono degli articoli in cui dice che l'università andrà riformata, andrà migliorata, poi nell'articolo dopo in cui si dice che si tagliano dei fondi. Allora, delle due l'una: o la migliori e la integri, o tagli i fondi e non permetti che l'università vada avanti e la ricerca vada avanti. Come mai all'interno di queste leggi vengono fatti questi giochi un pochino meschini? Ma dunque, intanto io non credo alla mancanza di una razionalità in queste cose, perché drammaticamente penso che ci sia sia una grande razionalità dietro a questi provvedimenti, anche se poi ovviamente diciamo il gioco è un po' quello dei banditi di trovare dei soldi da qualunque parte e rubarli a tutti, insomma, perché io penso che l'aspetto più stupido di questi provvedimenti sia il fatto che l'Italia si colloca veramente fuori dall'intero panorama internazionale. Questo non ha un colore politico, cioè se io penso al blocco del turnover in Italia in un momento in cui l'Italia ha meno del 10% di risorsa sul lavoro, sul settore scientifico e tecnologico, quando la media dell'Unione Europea è quasi al 18%, per non citare altri paesi, oppure penso che l'Italia investe nel sistema educativo, quindi non parlo di ricerca, parlo solo di sistema educativo, l'1,4% del PIL, quando la Corea investe il 2,6%, il Canada il 2,8%, gli Stati Uniti il 2,9%, da noi veramente parlare di tagli è una cosa che non ha minimamente senso, neanche di fronte alle storture e agli sprechi che ci sono nel sistema pubblico. Peraltro ci sono tre cose su cui non si dovrebbe mai tagliare: sanità, istruzione e ricerca, e normalmente si taglia sempre su sanità, istruzione e ricerca. Ovvio, perché in generale il personale, soprattutto dell'istruzione e della ricerca, diciamo è quello che quando protesta produce meno danni in giro nel paese, e questo è il motivo per cui io penso che questo movimento si rivolga moltissimo alle città, ed è il motivo per cui tanti dei messaggi che sono stati lanciati sono rivolti alla città, come la lettera aperta che è stata scritta in occasione della manifestazione del 30. Cioè è importantissimo coinvolgere tutta la città in questo tipo di movimento che sta nascendo e che si sta sviluppando in un modo straordinario, perché questo è un problema che veramente riguarda il futuro di tutto il paese. Francesco, siamo in una trasmissione scientifica, quindi parliamo di numeri. Parliamo di numeri. Quanti soldi vengono tagliati tecnicamente? Allora, i soldi sono tantissimi, perché si parte da un taglio sul fondo di finanziamento ordinario abbastanza piccolo per il 2009, circa 69 milioni di euro, anche se parlare di piccolo con queste cifre è abbastanza ridicolo, però si arriva in 5 anni ad un taglio totale di 1.441,5 milioni di euro. Perché la manovra dura dal 2008 al 2011. Sì, è un documento di programmazione economica e finanziaria che viene spalmato su circa 5 anni e che quindi prevede un taglio progressivo dei finanziamenti stabiliti nella legge finanziaria del 2007. Per esempio, il taglio del turnover ha un impatto fortissimo sull'età e sulla struttura del personale docente e ricercatore. Peraltro che già il personale docente e ricercatore è già vecchio di suo. Assolutamente sì. E facciamo, impedendo dei nuovi ingressi, ovviamente. Se facciamo delle statistiche su questo, per esempio il personale docente e ricercatore in Italia con meno di 40 anni è meno del 17%. Facciamo alcuni confronti: in Francia è circa il 25%, in Gran Bretagna è addirittura il 46% con meno di 40 anni, addirittura la Spagna, che era un paese dietro all'Italia nelle classifiche fino a un po' di anni fa, adesso ha il 36% del personale docente e ricercatore con meno di 40 anni. Poi, citando gli scienziati dell'antichità, le maggiori scoperte sono state fatte durante l'età giovanile, quindi si sa che quando uno è giovane ha la mente più fresca e quindi può produrre di più. Beh, ma infatti va detta anche un'altra cosa: non è un caso che l'Italia sia comunque in un ottimo posto da un punto di vista delle classifiche della ricerca, perché l'Italia si regge, il sistema universitario della ricerca italiana si regge su un mare di precari, si regge soltanto su un mare di precari. Facciamo un po' di numeri di Bologna, per esempio. Bologna ha circa quasi 3.000, poco meno di 3.000 unità di personale docente e ricercatore strutturato. Le stime dei ricercatori precari all'Università di Bologna, quindi chi ha un dottorato, un assegno di ricerca, un contratto, una borsa, poi le forme contrattuali sono di tutte e di più, vanno dalle circa 3.000 unità nella stima ovviamente più bassa a circa 5.000 unità. Quindi il rapporto di personale che fa ricerca soltanto all'Università di Bologna, nelle stime più basse, è il 50% strutturato e il 50% precario. Quindi è ovvio che guardando soltanto le stime del personale assunto non ci si riesce a rendere conto di come questa creatività venga poi sfruttata per portare l'Italia a posti più che dignitosi nell'ambito della ricerca scientifica. La realtà dei fatti è che la quotidianità della ricerca, la quotidianità delle lezioni, dell'assistenza agli studenti, del tutoraggio, dei laboratori, viene svolta tuttora da ricercatori precari. Thank you. Bentornati al Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. 33 180 94 94 per inviare un sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per una mail. Oggi si parla di ricerca precaria e quanto precaria. Al telefono abbiamo Maura Sandri, ricercatrice presso l'INAF di Bologna. Buongiorno Maura. Buongiorno a voi. Maura, noi ti abbiamo chiamato per una manifestazione particolarissima che ci sarà a Bologna, chissà quando, forse a novembre, credo, mi sì, sbaglio? Probabilmente il 29 novembre. Il 29 novembre. E io ti introduco con un intervallo di un video che c'è su YouTube fatto da Marco Malaspina, che ha un suono un po' particolare, un suono che ricorda qualcosa. Allora, parlaci di questa manifestazione, che cosa sarà, come ci si può partecipare e come si possono inviare le foto? Allora, la ricerca calpestata è un'iniziativa che si propone di portare in piazza tutti coloro che lavorano nel mondo della ricerca italiana per raccontare al pubblico la ricerca nel nostro paese e le difficoltà a cui sta andando incontro con la legge 133. Teatro di questa iniziativa vorrebbe essere la Piazza Maggiore di Bologna, ricoperta dalle nostre facce, che verranno calpestate ad emblema di quello che sta succedendo alla ricerca nel nostro paese. Nella piazza, intorno alle nostre facce, allestiremo banchetti dove racconteremo il nostro lavoro attraverso materiale divulgativo, lezioni di strada, piccoli esperimenti, un po' come la scienza in piazza, diciamo. Okay. La finestra temporale proposta è, come ti dicevo, dal 22 al 29 novembre. La data esatta verrà diffusa tramite comunicati stampa e anche tramite il sito web dell'iniziativa non appena ci verrà data una risposta dal Comune di Bologna, dalla Prefettura, anche se abbiamo avuto sentore che il sabato più probabile sarà il 29. Ok, quindi Maura, ci saranno una marea di foto in teoria in Piazza Maggiore, foto di precari da calpestare. Non solo precari, in generale tutti coloro che lavorano nell'ambito della ricerca, quindi ricercatori, tecnologi, amministrativi, tecnici, strutturati e non, proprio perché con questa legge vengono colpiti maggiormente i precari, ma non solo loro, anche gli strutturati, visto che attualmente negli enti di ricerca italiani il 30-40% del personale è precario e se questo viene a mancare, viene licenziato, come la legge 133 comporta, i progetti vanno in stallo e quindi anche il lavoro degli strutturati viene pesantemente bloccato assolutamente. Quindi tutti coloro che lavorano nel mondo della ricerca possono mandarci la loro foto, la loro faccia tramite il sito web dell'iniziativa, che è www.laricercacalpestata.it. E quindi lì c'è una forma per poter inserire delle foto, esatto. Poter mandare un messaggio, la propria presentazione, e una volta che la propria foto è messa in gallery si aspetta il 29 per poter essere calpestati dai, esatto, bolognesi. Sì, noi raccoglieremo tutte queste foto, provvederemo a stamparle in formato A0, Siccome questa iniziativa è completamente autotassata, non stiamo chiedendo sponsorizzazioni a nessuno per scelta, chiediamo gentilmente un contributo di 6 euro per la stampa delle foto. Nel sito è infatti presente un link PayPal per la raccolta dei contributi. Ora, questa donazione è facoltativa, nel senso è più importante per noi avere le facce. Se qualcuno non riesce con PayPal a fare la donazione o comunque ne è impossibilitato per qualche altro motivo, non importa, ci pensiamo noi a coprire la stampa della foto. Benissimo. Non c'è problema. Inoltre, per chiunque sia interessato a questa manifestazione di carattere divulgativo, abbiamo allestito un banchetto informativo all'ingresso dell'area della ricerca di Bologna, in via Gobetti 101, dove è sempre presente qualcuno di noi. Quindi chiunque volesse avere ulteriori informazioni, sia diciamo gente comune che non lavora nell'area, giornalisti, chiunque può venire lì e troverà dalla mattina alla sera qualcuno di noi a rispondere a tutte le domande, e abbiamo anche preparato stampe della 133, dell'articolo 37 bis della 1441, di quello che noi facciamo all'interno dell'area, ci sono varie cose. Ok, Francesco, tu hai mandato la tua foto? Non ancora, però conosco l'iniziativa e vi voglio ringraziare per questa cosa, perché credo che veramente tutte le iniziative che si aprono alla città siano fondamentali. È veramente un momento importante in cui dobbiamo uscire dall'università piuttosto che rimanere all'interno e protestare. Noi dobbiamo protestare con gli altri cittadini, quindi questo è veramente importantissimo. Sì, dobbiamo far capire a cosa facciamo, perché altrimenti quando qualcuno va in giro a dire che siamo fannulloni, questi ci credono. Esatto. E invece dobbiamo assolutamente far capire quello che è il nostro lavoro, e purtroppo probabilmente non siamo mai stati capaci di farlo capire a sufficienza, visto come stanno andando le cose. Laura, io ti ringrazio dell'intervento, ti saluto, grazie ancora, resta però in ascolto di Cacciafotone, perché ancora abbiamo i prossimi 10 minuti per parlare di queste sciagure che stanno avvenendo sulla ricerca scientifica, quindi grazie ancora e grazie a voi. In bocca al lupo per la manifestazione. Crepi, ci vediamo il 29. In bocca al lupo. Ciao. Francesco, la vita di un precario com'è? Ah, la vita di un precario non è molto diversa durante la giornata da quella di un ricercatore strutturato, direi che fondamentalmente è abbastanza simile. Mi sveglio la mattina, vado in laboratorio, faccio esperimenti, analizzo dati al computer, assisto studenti nelle tesi, vado a fare delle lezioni, quindi... Ma qual è il tuo campo di ricerca? Io lavoro sulla genetica dell'invecchiamento, in particolare su tecnologie abbastanza avanzate per fare indagini su tutto il genoma di persone giovani e anziane, per studiare, diciamo, quello che controlla geneticamente un invecchiamento in salute. Senti, tu al sondaggio fatto da Cacciafotone, in cui si prospettavano 3 alternative, accetterei passivamente la situazione, protesterei davanti al ministero oppure me ne andrei all'Italia, che cosa avresti risposto? Ovviamente l'ultima, me ne andrei dall'Italia, è una ipotesi che sto prendendo in considerazione seriamente per la prima volta dopo tutti questi anni. Non sei l'unico, perché al sondaggio di Cacciafotone, indetto quasi un mese fa, abbiamo solamente il 7% che accetterebbe passivamente la situazione, il 35% che protesterebbe davanti al ministero, come è effettivamente avvenuto, e quasi il 57% che se ne andrebbe dall'Italia. Insomma, una situazione che, se non è grave ora, sicuramente lo diventerà fra pochissimo. Beh, mi sembra abbastanza ovvio. Io, discutendo di questi argomenti, a volte, in un certo senso, mi ritengo molto più fortunato di un metalmeccanico, nel senso che, da un certo punto di vista, il vantaggio di un ricercatore è quello di potersene andare, portandosi dietro il proprio lavoro, cioè la propria testa. Questo assolutamente non è per supportare l'idea simpaticissima di Brunetta che noi siamo dei capitani di ventura, perché in realtà l'effetto di questo è il totale impoverimento del nostro paese, per cui, ed è il motivo per cui finora, nonostante la situazione non sia stata mai così rosea, sono rimasto in Italia, perché se tutti se ne vanno il nostro paese ci rimane ben poco. Non perché mi ritenga, diciamo, particolarmente positivo per il mio paese, ma sicuramente se molti come me hanno fatto la scelta di rimanere in Italia, penso che ancora qualcosa di valido ci sia nel nostro paese. Noi ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo musicale dei Wire Moves e poi torniamo in studio per le considerazioni finali. steps. Watch the sunspots racing down the bedroom wall. The world is waking up. So take your pills, go back to hiding Neverland. Wrapped up tight, covered in this blanket made of fabricated skin. Swallowed down, always try to staple up your face with them. Never flap your wings again. I guess you must know something. Con questa ritmica canzone dei Wiremoose concludiamo la trasmissione. Francesco, le tue considerazioni finali? Le considerazioni finali secondo me sono i messaggi più importanti che stanno uscendo da questo movimento in questi giorni, e cioè che innanzitutto uno slogan importante, cioè noi la vostra crisi non la paghiamo. Questo penso che sia uno dei messaggi più forti che va mandato a chi in questi giorni sta discutendo sul fatto che chi si muove è strumentalizzato da politici oppure non ha letto le leggi. Le abbiamo lette benissimo e purtroppo conosciamo benissimo gli effetti che produrranno. Peraltro con una fatica non indifferente per leggere le leggi, perché sono assolutamente illeggibili. Beh, questo indubbiamente, però penso che faccia parte della responsabilità civile e sociale anche di informarsi adeguatamente e sapere che cosa si sta facendo nel nostro paese da parte del governo. E l'altro punto molto importante è che credo che da questo movimento stia nascendo anche l'idea di una costruzione di un sistema pubblico che non è il sistema pubblico che conosciamo, ma che è un altro sistema pubblico che nasce dal basso. E questo è il motivo per cui in università diciamo che noi stiamo costruendo un'altra università in questi giorni. E questo è l'altro messaggio molto chiaro che vogliamo mandare a chi in questo momento ci governa e a chi sta pensando di distruggere il sistema dell'istruzione. Ne stiamo costruendo un altro in questi giorni. Francesco, non te ne andare dall'Italia, perché abbiamo bisogno di te come di tutti i ricercatori precari che lavorano 24 ore su 24 con stipendi assolutamente da fame, che in questo momento stanno lavorando alla creazione di un paese migliore. Quindi insomma speriamo che le situazioni cambi e speriamo che qualcosa migliori in questo paese, sia per quanto riguarda la ricerca sia per quanto riguarda l'istruzione. Un saluto a tutti da Caccia al Fotone e ci sentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti, ciao Francesco. Ciao.